un'amica, io c'ho un'amica che ha un marito che resta sempre in casa. Dice che è stanco, che si riposa ad ogni ora, per questo non lavora. Così succede che la mia amica lo fa felice e va lei a lavorare. Però una sera tornando alle tre apre l'armadio e sai cosa c'è? Viene fuori una biondina. Thank you.